l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale per raccontare l'Europa a modo nostro, Europa che Radio 24 segue quotidianamente nella sua attualità politica ed economica. Noi al sabato cerchiamo anche altri punti di vista, altri contributi per dare una realtà più diffusa, per respirare un po' questa cultura europea. Un programma in collaborazione con Euronet, euronet.eu, il portale europeo, tante voci, tante lingue diverse, tanto radio, tante radio diverse per appunto dare voce al nostro, alla nostra Unione Europea. Ci trovate in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, le nostre pagine che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti toccati, oppure in Twitter, @FedericoTaddi, anche lì per avere nomi, indicazioni, le coordinate di ciò e di cui andiamo a parlare. Come ogni sabato, un viaggio, la prima tappa di oggi è la Grecia. La voce di una bambina che canta una famosa canzoncina che appunto l'infanzia di tutto il mondo conosce. Perché? Perché andiamo appunto a parlare di bambini. Abbiamo letto un articolo che ci ha colpito particolarmente, le tante conseguenze della crisi. Tante volte abbiamo toccato, abbiamo visitato radiofonicamente la Grecia per capire quella che è una crisi causa nella quotidianità di un popolo, di una nazione. Beh, abbiamo trovato un articolo abbastanza allarmante che diceva appunto che una delle conseguenze della crisi era l'aumento degli orfani, l'aumento dei bambini abbandonati. La cosa ci ha particolarmente colpito e volevamo avere però una lettura reale, per quanto si possa avere una lettura reale di questo fenomeno, e quindi abbiamo invitato Dimitris Giuras, lavora nell'organizzazione internazionale SOS Children, è un gruppo pedagogico, lui lavora nella sezione greca di Atene e si occupano di bambini orfani e non solo, anche di supporto alle famiglie bisognose. Buongiorno Dimitris, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno anche a lei e a tutti gli amici che ascoltano la sua trasmissione. Grazie tanto per aver accettato l'invito. Non ci sono numeri reali, non ci sono statistiche. Noi abbiamo trovato questo articolo dove qualcuno appunto segnalava: attenzione, perché in Grecia sta succedendo questo. Le famiglie non sanno più come fare ad arrivare a fine mese, e una soluzione spesso è nell'abbandonare i minori. Dal tuo osservatorio è una realtà vera? È davvero qualcosa che sta accadendo? Sì, guardi che sono delle cose che devono essere chiare. Prima di tutto, ovviamente la crisi è un fenomeno sociale, è un fenomeno che provoca delle conseguenze molto gravi alle famiglie, quelle famiglie più deboli. Questo è vero, però da questo punto fino a dire che sono dei genitori che lasciano così in massa dei bambini nelle porte dei nostri programmi, questo è un'esagerazione. Ci sono certamente dei casi che questo ha successo, però la verità direi, perché i fenomeni sociali si sono osservati a lunghi termini di tempo e ancora siamo 2 anni che ci troviamo nella crisi, e si vede che c'è un aumento, almeno per quanto riguarda i nostri dati statistici, cioè i dati che teniamo noi alla nostra organizzazione, c'è un aumento della richiesta alla quota quasi 100% rispetto a 2010. Quindi insomma questo è un dato reale di famiglie anche del ceto medio, quindi una fascia nuova forse anche per voi che siete abituati a lavorare con i bisognosi. Prima di tutto quelli che soffrono sono le famiglie più deboli, quelli che anche prima della crisi sono delle famiglie che i genitori avevano dei problemi di diverso tipo, però insomma la famiglia è stata funzionante a un certo punto. Per la crisi, quando la crisi si è scattata, se uno dei genitori, oppure ancora peggio, due genitori hanno perso il loro lavoro, e questo fa scattare la tensione dentro la famiglia, questo genera dei problemi che fa gli uomini chiedere aiuto dai nostri programmi. Certo. Questo Dimitris, Dimitris, la crisi appunto vuol dire un aumento delle famiglie che hanno bisogno, ma vuol dire anche per voi meno fondi, meno soldi a disposizione. Come si fa a dare assistenza in tempo di crisi? Sì, in tutti i modi. Prima di tutto devo chiarire che la nostra politica come organizzazione è di fare tutto per stare le famiglie unite, cioè di non essere in bisogno dei ragazzi, i bambini, allontanarsi dai loro genitori. Sì. Questa è la prima priorità per noi. Perfetto. Certo, ci sono dei casi che questo allontanamento è inevitabile, però facciamo di tutto per dare supporto alle famiglie, e questo significa che facciamo programmi che offrono un appoggiamento psicologico, un appoggiamento anche materiale alle famiglie, tutto questo che possiamo fare. Bisogna dire ancora che noi siamo un'organizzazione privata, non è un'organizzazione pubblica. Mm-hmm. E questo vuol dire che i nostri fondi sono limitati. Certo. Perché proprio a causa della crisi gli uomini che appoggiano noi, cioè tramite sostegno economico, vengono limitati, capisci? Grazie davvero Dimitris. Ricordiamo l'associazione www.soschildrensvillage.org.uk, link che abbiamo già pubblicato anche nelle nostre pagine in Facebook. Dimitris, in bocca al lupo a te e a tutto il tuo staff, perché abbiamo piena consapevolezza, insomma, che sia un lavoro complicato e sì, delicato e assolutamente in prima linea. Grazie e buon sabato, ciao. Grazie a lei. Buonasera. Europost-it. 2012, anno degli anziani sempre più forti, sempre più preziosi. Secondo un sondaggio Eurobarometro della Commissione Europea, più del 60% dei cittadini dell'Unione afferma che si dovrebbe consentire alle persone di continuare a lavorare una volta raggiunta l'età utile. Più del 50% respinge l'idea di un'età di pensionamento obbligatoria e più del 30% non disdegnerebbe sostituire la pensione con un lavoro part-time e una pensione parziale. Quello che i cittadini chiedono è quindi una vecchiaia produttiva. Il 2012 è stato proclamato Anno Europeo dell'Invecchiamento Attivo e della Solidarietà tra le Generazioni. Gli europei vivono sempre più a lungo e in salute. Andare in pensione significa semplicemente entrare in una nuova fase della vita, piena di opportunità. L'auspicio della Commissione Europea è quello che gli anziani di domani restino occupati, condividano la loro esperienza lavorativa, continuino a svolgere un ruolo attivo nella società e vivano nel modo più sano e gratificante. Conferenze in Finlandia, corsi intergenerazionali a Lubiana e borse di studio per studenti pensionati messe a disposizione dal Politecnico di Monaco di Baviera sono solo alcune delle iniziative concrete già messe in campo. Per ulteriori informazioni visitate il sito ec.europa.eu/social. Junior Achievement Enterprise Challenge is a competition, an entrepreneurship competition that brings together young entrepreneurs from different countries. And the best ideas from each country that participate are chosen to come to this competition. We're going to compete to the best business idea. It's nice to see how different are one to the other and how different they present it. but the main thing or the common thing to all of them is the illusion they have and they really want to defend their own project. Ancora l'altra Europa, sono voci di giovanissimi imprenditori forse tra virgolette, ma giovanissimi per davvero. Anche oggi nelle prime pagine di tutti i quotidiani si legge appunto nelle paginate sulle liberalizzazioni che finalmente ci saranno forti agevolazioni per gli under 35, ma in Europa si fa qualcosa anche perché per chi è ancora più giovane, e scopriremo fra pochissimo quello che sta accadendo in Olanda. Ma prima andiamo a scoprire un'organizzazione europea, l'organizzazione più importante che fornisce formazione all'imprenditoria ai ragazzi dalle scuole elementari alle superiori, perché si può diventare imprenditori già in prima, seconda, in quarta, quinta elementare, ovviamente non per fare soldi ma per fare esperienza. L'organizzazione si chiama Yahye Europe e con noi c'è l'amministratrice delegata italiana. Diamole il benvenuto a Miriam Cresta. Buongiorno Cresta. Buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ascoltatori. Il nome è questo, è Yahye Europe, l'ho pronunciato bene? Sì, è come dire un acronimo che sta per Junior Achievement Young Enterprise, quindi molto più complesso, e familiarmente lo chiamiamo tutti Yahye. Ecco, riusciamo a fotografare qual è la vostra attività? Perché è curioso, è strano parlare di impresa, per esempio, all'interno delle scuole elementari. Cosa fate? Ma in realtà l'Europa ci dice di no, ci dice che gli skill imprenditoriali, come dire, prima si imparano e meglio è. Se pensiamo un po' anche alla situazione banalmente del nostro paese, dell'Italia in questo momento, fino a pochio tempo fa i ragazzi e le famiglie si chiedevano cosa farò da grande, adesso il tema e la domanda un po' cambia, diventa cosa farò da grande, quindi come dire, più contenuti e più skill si hanno anche di tipo imprenditoriale, quindi più capacità le persone acquisiscono di far da sé in qualche modo in questo contesto così cambiato, e meglio è. E questo network fa questa cosa da parecchi anni, ci sono una decina di anni di attività del network in tutta Europa con 37 paesi, ma alcuni stati, sto pensando agli UK, sto pensando a alcuni paesi dell'est Europa, sono attivi con organizzazioni da più di 20 anni. E l'idea è che già con i bambini delle elementari dai 9 a 10 anni si possa approcciare una dimensione che è quella dell'imprenditorialità attraverso delle simulazioni, attraverso dei roleplay che i bambini fanno con dei programmi naturalmente didattici precisi e incontrando anche delle persone che lavorano nella quotidianità da imprenditori nel mondo. Ecco, più o meno in Europa quanti sono i ragazzi coinvolti? In Europa ci sono più di 3 milioni di studenti, il programma diciamo che li coinvolge maggiormente è un programma rivolto alle scuole superiori, ma anche i ragazzi della scuola primaria sono estremamente raggiunti, sono più di 500.000 ogni anno i ragazzi della scuola primaria che vengono raggiunti da questi programmi, e anche nel nostro paese, in Italia, lo scorso anno 8.000 studenti italiani hanno fatto questo programma di microimprenditorialità a scuola. Ecco, questa è la teoria. In pratica come si sviluppa? Cosa succede? Ci può fare qualche esempio di attività, di impresa nata, sviluppata all'interno delle scuole? Certamente. Dunque, l'organizzazione opera creando prima di tutto una relazione diciamo stabile con alcune scuole, quindi c'è un'interazione molto forte con la didattica e con i docenti delle scuole, e poi coinvolge la comunità locale, quella che a livello europeo appunto chiamiamo business community. Con questi due interlocutori si attivano dei programmi didattici che sono già sperimentati e che sono quindi dei programmi inseriti poi a curriculum nella scuola, sono 4 o 5 puntate fatte diciamo in una classe con dei ragazzini, con dei bambini di un'ora a settimana, parliamo questa dell'iniziativa della scuola elementare, iniziative invece un po' più complesse, programmi un po' più complessi per la scuola superiore, ma anche qui parliamo al massimo di 40-50 ore in un anno scolastico. Ma girano soldi? Girano soldi concretamente, no? Con la scuola superiore sì, nel senso che con i ragazzi diciottenni, i ragazzi hanno anche un capitale con cui realizzano diciamo la loro impresa, un capitale però che recuperano loro naturalmente il tutto all'interno di un'esperienza formativa, quindi è un capitale sociale che non può superare la soglia, diciamo, delle 1.000-1.500 euro, quindi stiamo parlando di cifre comunque modeste, ma lavorano come una vera e propria società per azioni, vanno a cercarsi quindi gli azionisti, la scuola, a casa, i genitori, all'interno, come dicevo, della comunità locale, e poi con questo capitale realizzano, diciamo, la loro idea imprenditoriale. Mm-hmm. Che viene sviluppata da loro autonomamente e arrivano proprio a concretizzarla. Poi noi organizziamo anche, sia a livello europeo sia a livello di singolo paese che partecipa a questo network, delle fiere, delle competizioni che sono delle vere e proprie fiere commerciali, come quello a cui noi accediamo, come lo SMAU di turno per intenderci, sì. A cui i ragazzini poi partecipano con i loro stand e nel corso della quale vendono anche prodotti. C'è una competizione europea, tutte le informazioni sul sito ialinetteaie.eu che abbiamo già pubblicato sulle nostre pagine. Dottoressa Cresta, però adesso magari o quello che ha vinto l'ultimo concorso europeo oppure un progetto che l'ha particolarmente colpita, c'è proprio per dare un'idea così prima di salutarci di quello che i ragazzi, di quello che la creatività giovanile può dar vita? Lo scorso agosto si è tenuta la competizione europea ad Oslo e in quell'occasione hanno vinto i ragazzi della UK, della Gran Bretagna, realizzando, era un college di 5 ragazzi, un college maschile, e avevano realizzato una penna che aveva all'interno anche un dispenser per, come dire, il profumo, quindi aveva un doppio uso, insomma funzionava da penna in modo classico ma anche da dispensatore di profumo, e questo era pensato in qualche modo appunto per la persona di business in qualche modo. A livello italiano mi sta molto a cuore ricordare invece un'idea imprenditoriale sviluppata 2 anni fa dagli studenti friulani, da quei studenti, un gruppo di studenti friulani dell'Istituto Malignani, che a partire dalle alghe lasciate, diciamo, così dal mare, no? Le alghe considerate impazzatura, hanno realizzato invece un foglio di carta con un processo chimico particolare, e in questo momento sono ancora attivi con questo progetto e stanno ragionando sull'industrializzazione di questa carta. Insomma, ingegno e creatività, no? Come i ragazzi sanno essere spiazzanti, come è giusto che a quell'età si abbia la libertà di esserlo. Grazie davvero, dottoressa Cresta, buon lavoro, e continueremo a seguire comunque le attività della vostra organizzazione perché ci piace questo respiro europeo. E a proposito di respiro europeo, andiamo in Olanda perché ci ha colpito un articolo ripubblicato in questi giorni da Press Europe intitolato "Mamma, ho fondato un'azienda", perché lì sì è una realtà quella di adolescenti, perché stiamo parlando di anche di minorenni che riescono a creare delle piccolissime imprese con l'appoggio della Fondazione dei Giovani Imprenditori. È una realtà che si sta diffondendo. Pensate, alla Camera di Commercio oggi sono iscritti 500 imprenditori che hanno meno di 18 anni, quindi un numero piccolo ma assolutamente significativo. E come sempre, quando andiamo a parlare di Olanda e di quello che c'è di nuovo, di quelle che sono le nuove tendenze, abbiamo la nostra voce ufficiale. Diamo il ben ritrovato a Christian Hesser del sito mrharderblog.com. Ciao Christian. Ciao Federico. Questa volta siamo stati noi che abbiamo trovato, tu di solito ci hai abituato ad andare in giro per la rete a captare nuove tendenze. Questa volta abbiamo captato noi questa novità che nasce proprio dall'Olanda e ti abbiamo chiesto: ma è vero, la puoi studiare? Tu conosci qualcuna di queste piccole imprese? E, sì, lo sapevi, sì. C'è un terreno fertile e ci sono questi giovanissimi olandesi pronti a buttarsi sul mercato? Ci sono assolutamente. Tra l'altro, una piccola parentesi, bellissimo questo IAE, anche io come imprenditore ho aiutato anche qui in Olanda alcuni progetti per aiutare bambini a diventare imprenditori già durante gli studi a scuola. Mm-hmm. Bellissimo. La tua domanda è: ci sono? Sì, ci sono assolutamente, e ci sono anche delle ragioni ben precise perché ci sono, secondo noi. Prima ti racconto questo, mi è arrivata una telefonata un paio di giorni fa, e proprio per caso, perché adesso parliamo di questa cosa, mi telefonano e mi chiedono se vogliamo venire come dita a parlare con un imprenditore per aiutarli un attimo per quello che stanno facendo. Sì. Imprenditore di 23 anni. Io arrivo lì in ditta e mi trovo davanti Denzel e Martijn, due imprenditori che insieme hanno 26 anni. Due ragazzi di 13 anni, sì, che ci chiamano perché loro hanno un account su Twitter che si chiama LusuTweets, e loro insieme con questo account hanno 85.000 followers. Ok. Adesso, cosa succede? Cosa significa questo? Abbiamo visto che già all'inizio dell'era tecnologica avevamo imprenditori giovani come Merijn qui in Olanda, che adesso ha 25 anni, però ha iniziato quando era molto più giovane a fare dei siti. La seconda parte di imprenditori giovani sono quelli che dopo i siti hanno iniziato a fare delle applicazioni. Così c'è Puk Meerburg qui in Olanda, un ragazzo di 13 anni, che sta facendo applicazioni per aiutare i suoi coetanei a scuola a usare applicazioni per risolvere, per esempio, le tavole di come si dice, con i numeri, le scalette 2, 4, 6, 8, eccetera. La tavola pitagorica, le moltiplicazioni, ecco, esatto. Ok. Esatto. Ha fatto un'applicazione, ha già avuto 70.000 download. Sono ragazzi che nel loro tempo libero fanno queste cose. Queste sono applicazioni. Questo Denzel e Matteo di LusuTweets adesso sono ci stanno occupando di media, non più neanche di applicazioni, ma di media, perché loro hanno 85.000 follower su questo Twitter account e ci chiedono a noi come facciamo ad andare avanti. Questo significa, secondo noi, che non stiamo parlando di manager, ma stiamo parlando di imprenditori, che sono persone molto, molto differenti. Sì. Il manager ha bisogno di educazione, ma l'imprenditore anche lui ha bisogno di educazione, ma va spesso molto più veloce dell'educazione che gli viene data. Mm-hmm. Allora vediamo che oggi Joost de Mul, che è un filosofo culturale qui alla Erasmus Università in Olanda, dice che siamo nell'era dei bricoleurs e non degli engineers. Significa che siamo nell'era dei fai da te e non degli ingegneri. Siamo nell'era in cui con investimenti molto piccoli è possibile visualizzare quello che è la tua idea e vedere se è attualizzabile. E questi ragazzi giovani che sanno come funziona la tecnologia usano la tecnologia per esprimere i loro desideri di imprenditore. Mm-hmm. Allora vedi che anche il commercio reagisce su questa cosa. E vediamo che c'è la tendenza che dove ci sono soldi per investire in nuove aziende non si investe più in aziende già cresciute, che hanno un paio di anni fatturati enormi, ma si investisce in aziende a livello embrionale. E lì vedi che questi giovani hanno la possibilità di agganciarsi e realizzare i loro sogni in un modo velocissimo. Certo, insomma, il talento, la creatività, no? Il termine startup forse è già troppo vecchio in questo caso, perché stiamo parlando veramente di tredicenni e quattordicenni che hanno un'idea, ma non solo, fanno anche la sperimentano, trovano terreno fertile per potersi buttare, per potersi lanciare, ma non perché vogliono diventare novelli Bill Gates, ma proprio per il gusto di vedere la propria idea che diventa un qualcosa di concreto e buttarla, in questo caso, in rete fra qualche mese, fra qualche anno, nel mercato. Ci divertono soprattutto. Christian, grazie davvero come sempre per averci fotografato in maniera sintetica la situazione. Ricordiamo ancora mrharderblog.com. Come sempre, sei una nostra antenna nella rete, quindi se capti qualcosa noi siamo qua per essere tuo megafono. Ciao e grazie, buon sabato. Ciao, grazie Federico, grazie a tutti. Martin is someone very enthusiastic, sometimes emotional. And this is not necessarily negative. I really believe it can be very positive, namely to communicate now with the people of Europe. We need some emotion. We need the reason, but also emotion. And I think Martin Schulz has this characteristic. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Le parole che state ascoltando invece parlano di Martin Schulz. Arriva l'uragano Schulz, hanno intitolato alcuni quotidiani europei nell'annunciare il nuovo presidente del Parlamento europeo, notizia di questa settimana. Per capire che cos'è il Parlamento europeo, o meglio, cosa aspetta al Parlamento europeo nei prossimi mesi? Abbiamo invitato una persona che il Parlamento europeo lo conosce molto bene, anche perché in queste recenti elezioni è stato confermato per il secondo mandato come vicepresidente vicario del Parlamento europeo. Diamo il ben ritrovato l'onorevole Gianni Pittella. Buongiorno Pittella. Buongiorno a tutti. Ciao Gianni, ci diamo del tuo, anche se ormai siamo amici qui all'altra Europa. Tra l'altro, elezioni che grazie a te le abbiamo seguite in diretta via Twitter, perché ti sei divertito. Esatto, è stata un'esperienza bellissima. E non finirò mai di ringraziare tutti gli amici che su Twitter, su Facebook, attraverso tutti gli mezzi e gli strumenti tecnologici mi sono stati vicini in una vera e propria, insomma, elezione, cioè con scrutinio segreto, con 3 turni, 3 ballottaggi, alla fine abbiamo vinto con 319 voti, che è stato veramente un risultato storico, tra l'altro avendo eletto un presidente, come tu hai ricordato, Martin Schulz, socialista, si aspettava che il primo vicepresidente fosse di un'altra area politica, invece ce l'abbiamo fatta. Ok, ricordiamo che anche, se non erro, l'onorevole Roberta Angeli del PDL, vero? Angelilli, scusa. È la mia collega, ottima collega, che ricopre la carica di vicepresidente, siamo i 2 vicepresidenti italiani nell'ufficio di presidenza. Perfetto. Sono 14 vicepresidenti. Uh-huh. E è veramente un uragano questo Schulz? Ma Schulz è una persona che ha un carattere forte, su questo non c'è dubbio, ma non soltanto ha il carattere forte, pieno di passione, di entusiasmo, di tenacia, ma anche le idee chiare, insomma, sul ruolo del Parlamento europeo, ed è un sincero europeista. Da questo punto di vista c'è da aspettarsi una bella prova di protagonismo del Parlamento europeo. Diciamo, se possiamo fare un paragone tra i primi 2 anni e mezzo e i secondi, i primi 2 anni e mezzo hanno avuto un grande simbolo. Jerzy Buzek, presidente del Parlamento europeo, simboleggiava la riunificazione dell'Europa. Lui è stato un grande protagonista del rinnovamento democratico dell'est europeo, della Polonia, di Solidarnosc, e quindi aveva una finalità e una missione simbolica, fortemente simbolica. Martin Schulz è invece il protagonista pratico, concreto, capace di mettersi davanti al portone del Consiglio europeo dove ci stanno i governi e di non andarsene fin quando non il Parlamento europeo non viene accettato come un interlocutore con pari dignità rispetto ai governi nell'affrontare la crisi terribile che stiamo attraversando e nel delineare la nuova Europa, perché mi pare che questi siano i 2 grandi temi dei secondi 2 anni e mezzo di legislatura. Certo. Uscire dalla crisi e ridefinire quello che vogliamo che sia l'Europa, perché così com'è oggi, una sorta di ibrido, non può andare avanti. O si va avanti nel senso dell'Europa politica, o si torna indietro, o si regredisce. Ovviamente né io né Martin Schulz siamo su questa posizione. Certo, e quindi insomma una scaletta impegnativa per nei prossimi mesi, immagino, per il vostro lavoro. Tra le tante cose, anche il caso Ungheria, personalmente ti preoccupa? Ma noi gliel'abbiamo dette chiaramente in aula ad Orban, insomma, non è accettabile che si mettano sotto i piedi i valori, i principi su cui si fonda l'Unione Europea. L'Europa è amata e ha un senso proprio perché è un insieme anche di valori, di principi, la libertà di informazione, il rispetto dei media, il rispetto di chi la pensa diversamente e chi ha credi diversi, insomma. Se si vuole mettere il bavaglio a tutto questo, non si sta in Europa, insomma, si va contro quello che è il DNA dell'Europa. Ecco perché poi la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione. Noi come Parlamento europeo abbiamo detto ad Orban: qui non siamo il produttore di esecuzione, non siamo il tribunale di nessuno, però se tu non correggi questa impostazione, tant'è vero che lui poi alla fine si è impegnato a correggere, vedremo, staremo con gli occhi aperti. Gianni, tu come tantissimi tuoi colleghi non te ne stai certo rinchiuso nei tuoi uffici a Palazzo, ma in questo momento sai dove sono? Sono all'uscita dell'aeroporto di Palermo con un mare bellissimo, non sono venuto a fare la vacanza, sono venuto a fare una riunione con alcuni consigli regionali della Sicilia sul tema delle piccole e medie imprese che stanno vivendo una crisi difficilissima. Poi oggi pomeriggio presento la mia associazione nazionale prima persona, per dire che non sto chiuso nei miei uffici. Ecco, e nel tuo girare c'è un'immagine che regali dell'Europa? Cioè, qual è il sentimento europeo che cerchi di trasmettere, che cerchi di contagiare nella tua propria l'Europa, quotidianità? L'Europa amica. Cioè, noi dobbiamo dimostrare con i fatti concreti, con le misure, con le direttive, con i programmi, con i finanziamenti, con l'azione politica, che l'Europa è indispensabile. Un mio libro aveva per titolo L'Europa indispensabile, e questo poi è il concetto che cerco di trasmettere nei miei incontri, e cioè senza Europa, senza le istituzioni europee, senza una governance europea che affianchi i governi nazionali, noi saremmo meno forti, saremmo più indifesi, saremmo più deboli. Questo è il punto, ma non soltanto perché l'Europa ci dà i fondi strutturali, gli Erasmus, gli altri programmi, ma perché l'Europa ci consente di affrontare le sfide globali del nostro tempo. Se noi usciremo dalla crisi è perché ci sarà una leadership europea forte e consapevole che ci consentirà di fare le cose che abbiamo chiesto, cioè maggiore liquidità sui mercati finanziari, raddoppio del fondo salva stati, riforma delle agenzie di rating, lancio dei project bond, cioè, tasse sulla transazione finanziaria. Voglio dire, ma tutto questo senza Europa non si può fare. Certo, poche parole ma reali fatti. Però questa immagine dell'Europa amica mi piace, la facciamo nostra. Un grazie davvero all'onorevole Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento Saluti europeo. Saluti ai radioascoltatori e buon weekend. Grazie anche a te, ciao e buon lavoro. Ciao. Federico. 23 lingue ufficiali, oltre 2 milioni di pagine tradotte all'anno, sono alcuni dei numeri della direzione traduzioni della Commissione Europea. Con noi il dottor Gallus, eccoci qua Rafael, ben trovato. Grazie. Rafael, facci capire, cioè, chi siete, cosa fate, dove operate? Allora, sono tre domande. Chi siamo? Siamo dei traduttori, ovvero siamo delle persone che hanno studiato non necessariamente lingue, non necessariamente traduzione, che però fanno della conoscenza linguistica e in particolare della conoscenza dell'italiano un tesoro professionale. Dove siamo? Operiamo in due sedi, la DG Traduzione, forse non tutti lo sanno, non ha sede solamente a Bruxelles ma anche a Lussemburgo, quindi siamo ripartiti circa per il 50% a Bruxelles e per il 50% a Lussemburgo. E cosa facciamo? Ovviamente traduciamo. Adesso immagino che la prossima domanda sarà: cosa traducete? Assolutamente sì, bravo. Beh, diciamo che la nostra attività è fornire alla Commissione Europea traduzioni di tutti i tipi, quindi naturalmente noi traduciamo in particolare tutto quello che è legislazione, le direttive, come dicevate prima, i regolamenti e via dicendo, ma non solo, traduciamo anche tutta quella che è la corrispondenza dei cittadini che hanno il diritto di scrivere alla Commissione Europea, alle istituzioni europee nella propria lingua, quindi traduciamo questo. E tra le tante cose che traduciamo vorrei ricordare assolutamente il web, che è sempre più importante. Negli ultimi anni c'è stata una vera e propria esplosione di pagine. Se il cittadino apre il portale dell'Unione Europea, ovvero europa.eu, troverà una quantità immensa di pagine in italiano. Ebbene, questo è merito dei traduttori italiani della Commissione. In particolare c'è un'unità che si chiama Unità Web, che traduce soltanto le pagine web. Ma questo, Rafael, vuol dire che se io scrivo, io cittadino, una semplice mail al sito in italiano, questa mail viene tradotta nelle altre lingue? Assolutamente. Beh, no, non viene tradotta nelle altre lingue. Viene indirizzata al destinatario nella lingua che il destinatario all'interno della Commissione richiede. Quindi lei, non so, magari scrive una mail al commissario magari danese, noi la traduciamo in inglese o nella lingua che richiede il commissario, lui la legge nella sua lingua, poi il commissario scrive una risposta e noi la traduciamo in italiano per il cittadino. Insomma, è veramente un ruolo fondamentale, siete una sorta di cuore di questa Unione Europea, perché pensiamo che il primissimo regolamento della allora Comunità Economica Europea, ovvero il regolamento numero 1 del 1958, era proprio dedicato alle lingue, ovvero era il regolamento che fissava quali erano le lingue ufficiali della comunità, che allora erano 4, ovvero il francese, l'olandese, il tedesco e l'italiano, e oggi sono 23 e saranno presto 24 quando la Croazia entrerà nell'Unione Europea. E Raffaele, fate anche attività di educazione all'uso e alla conoscenza delle lingue, vero? Sì, naturalmente noi, a parte il nostro la nostra attività centrale, che è tradurre, ci occupiamo di molte altre cose, ne vorrei ricordare alcune. Sì. Per esempio organizziamo per le scuole superiori un concorso di traduzione ogni anno che si chiama Juvenes Translatores, per avvicinare i giovani alla traduzione, al mondo della traduzione. Oppure abbiamo istituito una rete di università che offrono dei programmi di master in traduzione, si chiama European Master in Translation, ovvero il master europeo della traduzione. In Italia abbiamo le università che vi aderiscono, sono la facoltà di traduzione di Trieste, quella di Forlì, nonché la Luis Pio a Roma. Poi organizziamo dei regolari visite di traduttori nelle istituzioni degli Stati membri o nelle università, in modo da avere degli scambi di informazioni terminologiche tra traduttori e italiani e comunitari. Poi facciamo degli studi sul multilinguismo, eccetera, eccetera. Ci sono veramente tante attività parallele. www.ec.europa.eu/translatores è il sito del concorso, ma abbiamo già pubblicato nelle nostre pagine in Facebook i vari link per conoscere meglio la vostra attività. Grazie davvero Raffaele, ma ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao, buon lavoro, grazie. Ciao, buon sabato. Pochissimo tempo, perché siamo quasi al termine della puntata, ma vogliamo darvi un assaggio di quello di cui parleremo più diffusamente settimana prossima. Un viaggio lungo tutto il Mediterraneo, parte del Mediterraneo, fa parte della nostra Europa, un viaggio fatto in tandem da Luis García Cuadri e Mercedes Valerio Márquez, 31 anni, architetto lui, radiologa lei. Sono una coppia, hanno lasciato il lavoro, hanno venduto la macchina per intraprendere questo viaggio lungo 20.000 chilometri per costeggiare tutto il Mediterraneo in senso orario. Con noi c'è Mercedes. Ciao Mercedes. Ciao, come va? Noi molto bene, voi? Molto bene, molto bene. E Mercedes, oggi faremo veramente solo un trailer di quello che andremo a conoscere meglio settimana prossima. Ci vuoi dire intanto da dove siete partiti e dove vi trovate ora? Sì, ci siamo partiti dalla nostra casa a Sevilla, al sud della Spagna, e adesso ci troviamo in Istanbul, dopo 12.000 chilometri e 11 mesi. Mm-hmm. Dove avete visto anche il mondo cambiare in questi, sì, certo, in questi mesi? Certo, il mondo sta cambiando. Mm-hmm. E sì, abbiamo visto tante cose, non soltanto al Nord Africa, anche nell'Europa mediterranea. Mm-hmm. Spagna, Francia, Italia, com'è questo? Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia, Turchia, com'è questa parte d'Europa vista da un tandem, vista pedalando? È bellissimo, anche se vai in bicicletta si conosce tutto abbastanza meglio, perché non soltanto vai alla città, anche vedi tutta la natura, vedi i piccoli paesi, è come si conosce veramente i nostri paesi del Mediterraneo. Uh-huh. E Mercedes, sabato prossimo sai già dove sarai? Ancora no, ma quando sappiamo te lo diciamo. per poter collegarsi. Assolutamente. Ma ancora non si sa. Viaggeremo con te per entrare nei dettagli e conoscere la cultura che avete respirato. Ciao Mercedes, grazie intanto. Un grazie a voi che siete stati in nostro ascolto. Un grazie a Margherita Ina, Viola Frifa, che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca in assistenza e Peter Bescapè alla parte tecnica. Ancora ciao da Federico Taddiano.